La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema settimanale di Radio 24. È la prima puntata dopo Oscar, ormai avete sicuramente saputo tutto di com'è andata, di tutto e di più. Noi ripartiamo da lì, però ci eravamo lasciati con gli Oscar ancora da assegnare, li abbiamo ritrovati assegnati con sorpresa, con una vittoria schiacciante di Kathryn Bigelow col suo The Hurt Locker, 6 statuette, tra cui miglior film e miglior regia, a spazzato via l'ex coniuge James Cameron, che invece con il suo Avatar ne ha vinte solo 3, ma insomma si accontenta degli incassi multimiliardari in giro per il mondo. Cosa ci rimane da dire degli Oscar? Una cosa, che ancora una volta l'Academy ha premiato il cinema delle idee prima ancora che il cinema dei soldi. È un trend che negli ultimi anni sta verificandosi molto spesso, sta avendo sempre ulteriori conferme, ed è un trend che tutto sommato qui alla Rosa Purpurea ci piace molto. Ma noi dobbiamo parlare di attualità, di cinema che c'è, di cinema che si può vedere in sala, di novità cinematografiche, anche di un bel festival come il Bergamo Film Meeting che si chiude proprio in queste ore. Allora noi cominciamo a riassumere tutto quello che c'è in questa trasmissione nei nostri titoli di testa. È Riccardo Scamarcio, la mina vagante del weekend al cinema. Ferzan Özpetek torna a raccontare il rapporto controverso fra gli italiani e l'omosessualità con toni di commedia. Da figlia alla ricerca di un padre in Mamma Mia, a perversa a Femme Fatale in Clos, la metamorfosi di Amanda Seyfried nel nuovo film di Ato Megoyan. Arriva al cinema il figlio di Poseidone, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, per inaugurare una nuova saga nel segno di Harry Potter. I film di Jean Gabin illuminano il Bergamo Film Meeting nelle loro versioni restaurate, storia di uno dei più bei festival italiani, amato dal pubblico, snobbato dalle istituzioni. E partiamo allora nel racconto dei film del weekend con Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Il ladro di fulmini, titolo chilometrico. Ma insomma è così, un film che apre una nuova saga cinematografica originata da una saga letteraria, un déjà vu produttivo che ricorda molto da vicino il percorso di Harry Potter, con cui infatti condivide il primo regista, Chris Columbus. Lo scrittore texano Rick Riordan non sarà diventato ricco come J.K. Rowling, ma se la cava bene. In America i libri della saga spopolano. Ora tocca al film. Negli Stati Uniti $80 milioni in 3 settimane. In Italia si vedrà. È ancora vivo! Quanto ci sono stato? 7 minuti. 7 minuti? Beh, è pazzesco, amico. Come fai? Non lo so, mi piace stare in acqua. Percy Jackson è un teenager come tanti, solo, lo avete sentito, con un alto grado di acquaticità. Un motivo c'è. Percy vive in una casa modesta con l'amata madre, il patrigno violento e alcolizzato, il vero padre, che Percy non conosce, è un dio dell'Olimpo, Poseidone, il dio del mare. Tutto questo ingombrante fardello genetico diventa chiaro quando, durante una visita in un museo, Percy vede la sua prof trasformarsi in un mostro alato che minaccia di ucciderlo se non farà saltar fuori il fulmine di Zeus, scomparso dalla armamentario del capo dell'Olimpo. Lo svelamento della verità, ormai irrimandabile, spetta al professor Brunner, un Pierce Brosnan barbuto e costretto sulla sedia a rotelle. Ci sono 12 dei nell'Olimpo. I 3 più conosciuti sono i fratelli Zeus, Poseidone e Ade. I loro figli erano per metà umani e per metà dei. Percy Jackson, dobbiamo parlare. Non puoi ingannarmi! Professoressa Dozzi! L'hanno trovato. Un momento, chi mi ha trovato? La missione è chiara, Percy deve trovare il fulmine scomparso e restituirlo a Zeus prima che si scateni una guerra fra gli dei dell'Olimpo piuttosto permalosi. Zeus, Poseidone e il malvagio Ade, come avete sentito. Per riuscire nell'impresa Percy dovrà prepararsi frequentando il campus dove si addestrano i semidei, insieme all'amico Grover, dietro cui si cela un simpatico satiro che lo assiste e lo protegge, e la bella Annabeth, figlia di Atena. E dovrà anche imparare a maneggiare strumenti di guerra che non sono quello che sembrano, dalle scarpe alate a una penna magica. Tutti i semidei ereditano dei poteri. Devi seguire i tuoi istinti. Prendi questa per difenderti. È un'arma molto potente. È una penna. Utilizzala solo in momenti di grande pericolo. È una penna. Usala! Percy Jackson non regala allo spettatore niente di più e niente di meno di quel che lo spettatore può aspettarsi, un film fresco, girato da una mano sicura come quella di Columbus, che nel suo curriculum ha all'attivo grandi successi di intrattenimento come Mamma ho perso l'aereo oppure Mrs. Doubtfire, sospeso fra il disneyano Hercules e il già citato Harry Potter. Funziona l'alchimia fra i personaggi, convince lo sguardo sulla voglia di riscatto di chi non vive una vita fatta di agi e lustrini. In questo i ragazzi di Percy Jackson sono l'opposto di quelli leccatissimi di High School Musical. Percy, ad esempio, è dislessico, ma il suo difetto si rivela un vantaggio perché riesce a trasformare in greco antico l'inglese a colpo d'occhio. Noi abbiamo raccolto alcune dichiarazioni del regista, cominciando dalla scelta dei miti greci come tema nella nuova saga. Chris Columbus. Very fascinated. Unfortunately, in a film like this, and we'll continue to, if we get to do more of these films. Oh, mi affascinano moltissimo. Sfortunatamente, se continuiamo a fare film come questo, siamo costretti ad affrontare continuamente i temi più cupi della mitologia greca. Questi miti sono così complessi, così oscuri. Voglio dire, ci sono personaggi che mangiano i loro stessi figli. Lo stesso mito di Poseidone e Medusa è terrificante. Inoltre, c'è un momento in cui Medusa dice: «Il figlio di Poseidone è oggi tuo padre». E questo è inaccettabile per un pubblico adulto. Insomma, vorrei cimentarmi ancora in questo genere. Voglio dire, è difficile rendere l'idea di genitori che mangiano i loro figli, poi li vomitano e questi diventano qualcos'altro. Una parola sulle star di cui è disseminato qua e là il film. Abbiamo detto del centauro Pierce Brosnan, ma sai, divertente è la medusa di Uma Thurman che gestisce, guarda un po', appena del contrappasso un negozio di statue. E mentre il primo Percy Jackson è nelle sale di tutto il mondo, già si pensa ai prossimi capitoli che, come spiega ancora Chris Columbus, non potranno che aumentare la componente dark. Well, I think so. I think it depends on how, you know, we, as I said in the press conference, I felt I had a tremendous amount of freedom. Beh, credo di sì, anche se, come ho detto nella conferenza stampa, mi sono sentito molto libero nell'adattamento cinematografico dei libri, perché la resa del film era la mia priorità. Voglio dire, non è che il mio obiettivo sia quello di girare film sempre più cupi e dark. Piuttosto mi piace il senso di avventura, sin da quando scrissi i Gremlins e i Goonies. Percy Jackson non è come i Gremlins e i Goonies. Quei film erano i classici film da sabato pomeriggio. Ma alla fine lo è anche questo. Ed è la prima volta che ho avuto la possibilità di rifare qualcosa di simile a quelli come regista. Passiamo al cinema italiano, che sta incontrando una stagione positiva. Vale la pena aprire una parentesi. Gli ultimi dati dell'Agis parlano di una sensibile crescita della quota del mercato italiano, dal 24,5% del 2009 al 33,5% dei primi due mesi e mezzo di quest'anno. E badate bene, i cinepanettoni film natalizi non c'entrano nulla. Fra i 5 film italiani che hanno già superato i 5 milioni di incasso dall'inizio del 2010, ci sono autori come Verdone con il suo Io, loro e Lara, Muccino con Baciami ancora, Virzì con La prima cosa bella, Veronesi con Genitori e figli. Questo è il cinema italiano, quello di cui si lamenta spesso la scomparsa, quello capace di riportare la gente al cinema raccontando la gente al cinema. E ora in questo solco stanno per inserirsi i film di Soldini, Salvatores e, da subito, Le mine vaganti di Ferzan Özpetek nei cinema da questo fine settimana. Pronti ad accoglierlo nelle prime posizioni in classifica fra 7 giorni, ce lo facciamo raccontare da Barbara Righini. Tommaso, hai visto che bella sorpresa? I tuoi amici di Roma. Volevamo solo farti un saluto. Loro stavano per andare al mare e poi ci hanno detto di salire. Mi avete fatto una sorpresona proprio. Ciao, bello. Ciao. Il poco entusiasmo di Tommaso, interpretato da Riccardo Scamarcio, rivela tutto il dramma interiore del personaggio. Giovane rampollo di una famiglia di imprenditori di Lecce, nasconde alcuni segreti. È omosessuale e vuole fare lo scrittore. L'arrivo degli amici da Roma potrebbe metterlo nei guai. Tommaso ha vissuto nella capitale a lungo e di ritorno nella città d'origine è deciso a fare outing. Peccato che è anticipato dal fratello, omosessuale anche lui. La rivelazione di Antonio getterà nello sconforto e nella vergogna tutta la famiglia, in primis il padre, un uomo all'antica, incastrato nelle convenzioni sociali. Era tutto per me, tutto. E gli dovevano piacere le femmine come piacciono a me, hai capito? In una situazione tanto complicata e improvvisa, Tommaso troverà un inatteso sostegno da parte di una nuova amica, Alba, nonostante il primo incontro non lasciasse ben sperare. Oh, Tommaso, vieni. Ti presento Alba Brunetti, la figlia del commendatore. La nostra nuova socia in affari. Ciao. Ciao, piacere. Alba, Tommaso, giocavamo insieme da piccoli, non te la ricordi? Non me la ricordo, scusa, mi dispiace. No, non ti dispiacere, nemmeno io mi ricordo di te. Meno pretenzioso dei precedenti e più equilibrato, Ferzan Özpetek, con Mine Vaganti, ha messo da parte il suo ego al servizio di una regia più sincera. Molti i temi affrontati, riflette sulle infelicità che spesso si nascondono dietro famiglie apparentemente serene, sulla necessità di compiere le proprie scelte con il rischio di sbagliare e su quanto in Italia sia ancora difficile essere accettati per quello che si è in società. Certo, Özpetek è sempre Özpetek e con furbizia cerca la commozione dello spettatore. Ma in Mine Vaganti lascia molto più spazio ai suoi attori, facendone risaltare la bravura Ennio Fantastichini e Ilaria Occhini su tutti. Fin qui il racconto di Mine Vaganti dalla nostra Barbara Righini. Ora ascoltiamo le voci dei protagonisti, cominciando dal regista Ferzan Özpetek, che spiega così chi sono e che ruolo hanno le Mine Vaganti nella nostra vita. Io credo che siano essenziali nella nostra vita, Mine Vaganti, perché sarebbe abbastanza piatto senza di loro. In alcuni momenti sono molto stancanti, cioè nella vita avere degli amici Mine Vaganti un po' stancante in alcuni momenti. In alcuni momenti sono di grande gioia, in alcuni momenti li apprezzi dopo, non sul momento, però ci vogliono. Nel cast Ennio Fantastichini, un attore ritrovato dal cinema italiano che dopo un iperutilizzo a cavallo fra gli anni 80 e i primi 90 lo aveva un po' dimenticato. Per Fantastichini è la seconda volta con Özpetek che lo aveva voluto già in Saturno Contro. A me piacerebbe sempre lavorare con lo stesso regista, cioè perché hai una marcia in più, hai un rapporto privilegiato. Nel primo film facevo anche un personaggio così, una partecipazione, un personaggio laterale, ma è stato molto difficile, cioè, nonostante io e Fer ci conosciamo da tantissimi anni, dai tempi che io facevo l'Accademia, lui veniva, era lì come uditore, insomma ci conosciamo da tanti anni, non avevamo mai lavorato insieme. In questo film qui ho sentito uno scatto fortissimo nell'avanzamento di questo rapporto, una vicinanza maggiore, una tenerezza maggiore e anche un affetto maggiore, e questo mi piace molto perché il mio fanciullo dorme tranquillo dopo questo. Per l'attore è un film che riflette anche sulla mancanza di comunicazione in certe famiglie. In quella ritratta da Özpetek, il suo personaggio, anche nei momenti più difficili, fatica a ritrovare il dialogo con la moglie. Beh, no, c'è una scena nel film che io amo molto i tagli notturni in silenzio, quando le persone non si dicono niente, e c'è una scena dove nessuno di noi due dorme, ma uno guarda da una parte e uno guarda dall'altra parte. E in realtà è un insieme di solitudini, no? Questo film racconta anche un insieme di solitudini. La disfunzionalità di questa famiglia non ha niente di eccezionale, se così diamo un'occhiata al mondo. Ma nel caso di Antonio c'è anche vittima di un sistema totemico terribile, dove per tutta la vita lo hanno ossessionato su questi temi, queste sono le cose che vanno fatte, queste sono le cose che sono buone e queste sono le cose che non sono buone. Fortunatamente, secondo me, quello che ho pensato io è che alla fine dentro Vincenzo vinca l'amore e non vinca il pregiudizio o la diffidenza. Ennio Fantastichini a raccontarci Le Mine Vaganti, il nuovo film di Ferzan Özpetek nei cinema italiani. Noi a questo punto apriamo la prima finestra sul nostro DVD game, sulle tre tracce di un film misterioso almeno fino a quando voi non lo indovinate e fino a quando non ci dite di che film si tratta, al nostro indirizzo di posta elettronica per provare a vincere il DVD o il Blu-ray. In questo caso giochiamo con l'alta definizione di questo film. Ascoltiamo la prima clip. Tu hai mai pensato che una scelta da niente ci può cambiare la vita? Si dice che la madre di Hitler volesse abortire, ma cambiò idea all'ultimo momento. Ti rendi conto? È un film non recentissimo, ma neanche così distante nel tempo. La Rosa Purpurea, @radio24.it, è l'indirizzo a cui scrivere il titolo del film e, come sempre, corredarlo con il vostro indirizzo privato, perché se siete i più bravi e veloci del sabato e della domenica potrete ricevere questo Blu-ray a casa. andiamo avanti ancora con le novità. Terzo film di cui si occupa La Rosa Purpura, ne abbiamo scelti tre fra i tanti, non tantissimi, che escono in questo fine settimana. Torna nei cinema italiani Atom Egoyan, canadese di nascita, armeno di origini. Egoyan è stato uno dei pochi registi capaci di imporre una nuova cifra stilistica e tematica al suo cinema, fra quelli emersi negli anni 90. Pensate a opere come Il viaggio di Felicia, per esempio, oppure il suo esordio straordinario, Il dolce domani, The Sweet Hereafter. Anche se questo Claw si avvicina di più alle atmosfere torbide di Exotica, e allora tuffiamoci proprio nel racconto di Claw. Cominciamo da Catherine, interpretata da Julianne Moore, che è un ginecologo di successo. David, suo marito, Liam Neeson, un fascinoso professore di musica. Catherine e David sono una coppia bella in superficie, ma con una grande crepa che mina la stabilità. Il loro rapporto si sta esaurendo. La gelosia di Catherine fa il resto. Convinta che il marito la tradisca con tante e fresche studentesse, Catherine si mette in mente un'idea perversa, per la quale è determinante una bellissima ragazza, Chloe, conosciuta per caso nei bagni di un ristorante di lusso. Le è accaduto questo? No, non è mio. Lo prenda comunque. Perché? Voglio che lo abbia lei. Ora devo tornare da mio marito. Tornata al tavolo, Catherine nota che Chloe è in compagnia di un uomo anziano e distinto, una prostituta d'alto bordo, che Catherine deciderà di ingaggiare con la missione di sedurre il marito per testarne e documentarne il grado di infedeltà. Chloe incontra David e riporta fedelmente alla tormentata Catherine tutto ciò che accade, particolari compresi. Dal suo canto Catherine più sa e più vuol sapere, anche se non mancano i momenti in cui l'amore con David e soprattutto la sua complicità sembrano essere nuovamente lì, a portata di mano. Oh, un nettare. Prova. Grazie per lo scotch. E grazie per la stramaledetta festa. Adoro il tuo sorriso. No, non è vero. Quando abbiamo smesso di venirci a prendere all'aeroporto? Non lo so. E quando abbiamo smesso di aspettarci al gate? Non riesco neanche a ricordare quando è successo l'ultima volta. Quando hanno aumentato i controlli. Dico sul serio. Non lo so. Siamo sempre così impegnati. Il torbido gioco sfugge di mano a Catherine. Chloe diventa una presenza ingombrante, impossibile da gestire. Ma questo gioco al racconto erotico, e un po' anche al massacro, ha l'effetto di ridestare in Catherine sensazioni che sembravano sopite. Una trappola fatta di desiderio sessuale che prende direzioni inimmaginabili. La cura si rivela peggiore del male, ammesso che un male ci fosse. Ti avevo detto di non chiamare più mio marito. Io non l'ho chiamato, lui ha chiamato me. Quando... ha chiamato, era come se fosse... Non era per il sesso. Ha detto che quando ti tocca... ha la sensazione di tradirmi. Dobbiamo incontrarci. Tra un'ora al caffè diplomatico. Atom Egoyan ha ereditato questo progetto, in fondo il remake del recente Natalie con Fanny Ardant, Gérard Depardieu ed Emmanuel Béart, da una sceneggiatura e di Erin Cressida Wilson, già autrice degli script di film come Secretary e Fur, una insomma che di amori torbidi se ne intende. Pur con qualche passaggio a vuoto e con qualche indecisione fra il mainstream di un film alla attrazione fatale e lo scavo nella psicologia dei personaggi, Egoyan riesce a tenere viva la tensione e soprattutto a raccontare la metamorfosi di un rapporto fra due donne nato a tavolino e tracimato nella passione irrazionale. Grazie soprattutto alla bravura degli attori, su tutti Julianne Moore. Sentiamo il regista Atom Egoyan. Credo che tutti i film abbiano a che fare con la delicatezza delle relazioni e con il mistero che rappresenta l'incontro tra due persone. Questo film è molto misterioso. Racconta la storia di una donna che pensa che il marito abbia una relazione extraconiugale, ma lui nega. Così lei paga una donna perché flirti con suo marito e le racconti le sue reazioni. Tra le due donne si instaura così un'amicizia molto particolare, molto intensa e ricca di temi affascinanti. il concetto di fantasia all'interno delle relazioni, come cerchiamo di capire che cosa proviamo davvero, ma soprattutto riguarda la fragilità degli esseri umani. Credo che le interpretazioni in questo film siano fantastiche. Gli attori sono davvero straordinari. Prima di spostarci a Bergamo per parlare del Bergamo Film Meeting di Jean Gabin, un'occhiata, una perlustrazione alla classifica degli incassi dello scorso fine settimana. È anno di incassi monstre, di Avatar sapete tutto, ma anche Alice in Wonderland, il nuovo film di Tim Burton, è partito con il botto. Pensate, qualcosa come 8 milioni nel primo weekend di programmazione, 10 milioni visto che è uscito di mercoledì e ha raggranellato un altro paio di giorni sul grande schermo. Pensate che in America il film di Tim Burton è già arrivato a 116 milioni di dollari di incasso, tutto in un fine settimana. Beh, insomma, sono cifre da capogiro. Secondo posto per Genitori e figli di Veronesi, come abbiamo detto, uno dei film italiani che sta andando meglio dall'inizio del 2010. Poi entra al terzo posto Shutter Island di Martin Scorsese, è quarto Invictus di Clint Eastwood, Avatar pian pianino scende, ma insomma è al quinto posto. Segnaliamo la performance ormai straordinaria De Il Concerto, uno dei più bei film d'autore usciti in questo scorcio di stagione, di Radu Mihaileanu, che è arrivato a 2 milioni e mezzo di incasso, ma soprattutto è in classifica nella top 10 immarcescibile da almeno 6 settimane, quindi davvero una performance, un passaparola che sta funzionando molto forte con questo film. Ma noi, proprio per parlare di cinema d'autore, a questo punto ci spostiamo sul Bergamo Film Meeting. Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. La voce che sentite è quella di Jean Gabin, del mitico Jean Gabin, che canta Maintenant je sais, scusate la pronuncia francese, non è il mio forte. Lo facciamo perché il Bergamo Film Meeting ha dedicato una straordinaria retrospettiva a Jean Gabin e noi del Bergamo Film Meeting abbiamo in collegamento il direttore Angelo Signorelli, che saluto. Ciao Angelo. Ciao, ciao a tutti. Allora Angelo, il Bergamo Film Meeting è praticamente finito, nel senso che sono stati diramati i nomi dei vincitori del concorso, però io volevo fare un piccolo aneddoto, insomma, un piccolo excursus su questa nostra telefonata, perché ero partito in settimana dicendo dobbiamo parlare con Angelo Signorelli di questa retrospettiva straordinaria sui film, 24 film di Jean Gabin restaurati, copie bellissime, eccetera. Poi ho letto la tua prolusione, la tua introduzione alla cartella stampa e ho detto no, bisogna prima parlare del Bergamo Film Meeting, perché con i tuoi forse e con i tuoi se ci hai veramente a parte interessato, ma poi ci hai anche proprio spostato un po' l'asse di questa nostra telefonata. Perché? Perché il Bergamo Film Meeting è uno dei festival ai quali io personalmente sono più affezionato fra quelli che mi capita di vedere in giro per l'Italia. È sicuramente uno di quelli a più alto tasso qualitativo, perché il cinema che si vede a Bergamo è di straordinaria qualità e nel ripescaggio del passato e nella proposta del presente, e ciò nonostante, e nonostante sale una sala, quella dell'Auditorium di Piazza della Libertà, sempre piena, sempre completamente piena, si sta in piedi molto spesso, ebbene ciò nonostante le istituzioni sembrano ogni anno sempre meno attente, ogni anno sempre più distanti dal sostenere un festival che fa talmente tanta fatica a essere messo in piedi ogni anno, che ogni anno il tuo ragionamento, il tuo commento sulla cartella stampa è sempre più amaro. Sono solo contento del fatto che hai messo alla fine del comunicato stampa dei premi: Bergamo Film Meeting vi dà appuntamento dal 12 al 20 marzo 2011. Insomma, è un buon auspicio questo, no Angelo? Sì, no, non, nel senso che noi il festival abbiamo comunque sempre intenzione di farlo. Naturalmente sotto una certa soglia non possiamo andare, questo è una preoccupazione, ma come dicevi tu prima è più che altro un sentimento così di non so, di disagio nel vedere che appunto nonostante la manifestazione sia comunque sempre un momento molto vitale per la città, ma non solo per la città, perché poi a Bergamo vengono un po' da tutta Italia, vengono anche dall'estero, ecco, nonostante questo poi ci troviamo sempre alla fine dell'anno ad avere dei grossi problemi per far quadrare i conti, ecco. Diciamo che è più una questione di appunto di sentimento di non trovare quella quelle gratificazioni o anche quelle, non so, quel rispetto da parte degli enti che ci stanno sostenendo, peraltro da tanti anni, e questo bisogna comunque riconoscerlo. Ecco, allora noi ricordiamo al Popolo della Rosa Purpurea, se avete la possibilità, magari anche una mail di sostegno, scrivete al Comune di Bergamo, alla Regione Lombardia, insomma, chi secondo voi può aiutare questo festival, perché davvero si fa fatica avere copie così belle, così restaurate dalle principali cineteche del mondo, eccetera. Insomma, non è facile. Io qualche anno fa ho visto una retrospettiva di uno dei miei autori di culto, che è Jacques Demy, lì a Bergamo, e l'ho vista in una forma smagliante, come al cinema è impossibile vedere se non ci sono dietro forti restauri e quindi forti spese. Beh, insomma, un Bergamo Film Meeting è una istituzione, però non è che i film arrivano gratis, insomma, ci vuole. Anzi, più i film sono restaurati, più sono belli, più costano, giustamente, perché poi chi compie questi restauri ha delle spese da sostenere che sono spese alte, quindi anche giusto che si facciano pagare dei diritti, e poi aggiungi l'importazione delle copie, aggiungi comunque il noleggio delle copie, insomma alla fine un film classico ti costa anche più di 1.500-2.000 euro. E ricordiamo che l'ingresso a Bergamo, se non ricordo male, all'auditorium della Sala della Libertà è o gratuito o comunque a prezzo calmieratissimo. Sì, noi facciamo questi ingressi a fasce, 6 euro, uno può vedere 2-3 film, oppure c'è un abbonamento che comunque ti dà diritto ad avere i due cataloghi, insomma alla fine i costi sono praticamente sono molto bassi, se rapportati appunto alla quantità di film, che sono circa 80, che può vedere in 9 giorni di programmazione. E allora, siccome l'alchimia fra il nuovo sperimentale e il vecchio super affermato e da riscoprire è la formula vincente di Bergamo, ricordiamo che ha vinto un film finlandese che si chiama Thomas, se non sbaglio, sì. che però il secondo premio è andato a un film italiano, La piccola A, di Salvatore D'Alia e Giuliano Ricci. Insomma, questa è anche una soddisfazione, anche quella di scoprire di volta in volta giovani talenti, no? Sì, difatti nel concorso c'erano 5 opere prime e 2 opere seconde, per cui comunque è sempre dare la possibilità dei giovani che hanno fatto dei lavori comunque belli, anche con dei difetti, però comunque hanno rischiato anche sia sul piano del contenuto che su quello della forma, di dare loro fiducia, insomma di creargli una platea anche per essere conosciuti dal grande pubblico, e questo credo che sia una delle funzioni più importanti di Bergamo Film Meeting. Senti, Angelo, abbiamo cominciato con Jean Gabin, finiamo con Jean Gabin, questi 24 film, ma in generale l'attenzione del pubblico, l'amore del pubblico per questo straordinario attore, che cosa ha fatto riscoprire, cioè qual è stato secondo te il sentimento attorno a questa retrospettiva? Ma sì, noi siamo rimasti sorpresi perché la retrospettiva ha avuto una presa fortissima sia su un pubblico maturo che su un pubblico di giovani. Lui è un personaggio che forse esprime come l'abbiamo detto nel catalogo e tante volte, esprime anche sentimenti propri di un paese intero, una Francia parte rurale, parte urbana, con le trasformazioni che sono state dagli anni 30 fino agli anni 60. E lui percorre questi personaggi, dà l'idea di un cambiamento anche attraverso la sua persona, perché lo troviamo giovane, magro, relativamente magro nei primi film, e sempre più appesantito, ma sempre più efficace anche nel rendere appunto questa Francia. E lui poi era un alsaziano puro sangue, uno che amava anche la buona cucina, il buon vino, e quindi è anche rivedere un po' una Francia che probabilmente non c'è più, però anche con delle tensioni così morali, soggettive, veramente veramente molto forti, per cui i suoi personaggi alla fine sono delle storie viventi. Ecco, credo che lui nelle sue interpretazioni sia riuscito a portare tutta la sua fisicità, ma anche tutta la sua umanità, tutta la sua forza proprio di persona, di uomo, insomma. Grazie Angelo Signorelli, direttore di Bergamo Film Meeting. Grazie a voi per l'ospitalità. E noi siamo alla seconda tranche del nostro DVD game, ascoltiamo un'altra clip. Uno ha cercato di aggredirmi e io gli ho tirato un pugno e lui mi ha tagliato. Oh, ma guarda la tua mano, bisogna andare all'ospedale. No, ma non è grave, non è tanto profondo, che è solo che ho perso tanto sangue. Se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea a @radio24.it. E adesso si apre un'altra vetrina, quella su Trailer USA, le uscite americane. C'è un film che uscirà in autunno, ma di cui è già stato diffuso il primo trailer. Farà molto discutere, probabilmente. È un film a sfondo sociale che, con pungente ironia, riprende ancora una volta la vita americana. È una commedia sarcastica su un certo modo di intendere the way of life della middle class statunitense. Basti pensare che il motto è non vivono solo il sogno americano, lo vendono. Parliamo di The Joneses, film di un esordiente, Derek Bonte, ma con un cast di tutto rispetto in cui spiccano Demi Moore e David Duchovny. Ma ci spiega tutto la nostra Micaela Bellisario. Sì, ciao Franco. Come dicevi, la commedia è decisamente tagliente, uno spaccato della vita americana a due chiavi di lettura già dal nome del film, The Joneses, perché The Joneses è un modo di dire idiomatico che sta per chi vuole essere all'altezza degli altri, in questo caso dei vicini. Il film descrive la storia di una classica famiglia bene americana che si trasferisce in un quartiere fuori città. E fin qua, insomma, tutto normale. In realtà la facciata nasconde una situazione decisamente diversa. Padre, madre e figlia non sono altro che attori messi lì per recitare, pubblicizzare attraverso la loro vita quotidiana dei prodotti di lusso per la gente del quartiere. Ecco l'allegra famigliola in macchina che sta per trasferirsi. Il padre e marito di questa allegra famiglia dice: mi sa che faremo danni in questa città. We are gonna do some damage in this town. Meet the Joneses. I'm Steve Jones. Hi. This is Jen and Mick, and I'm Kate. They're beautiful. That's hot. Oh, I love this. I Joneses, come dicevo, praticamente sono testimonial di prodotti di lusso. Hanno bellissime macchine, organizzano fantastici party, giocano a golf con i migliori bastoni e vestono chiaramente griffati. In questo meccanismo dorato, però, a un certo punto qualcosa si inceppa, intervengono i sentimenti, quelli veri, e questa finta famigliola, che peraltro ha scatenato anche l'invidia di alcuni vicini di casa, deve scegliere tra la carriera nella pubblicità o la vita. Non vi sveleremo chiaramente il finale, invece in questo passo del trailer vi faremo sentire un'esperta di marketing che spiega attraverso una ricerca il gradimento di marketing per ogni mossa interpretata dalla famiglia. Sporting goods up 16%. Booyah! Where'd you get the feeling? What you want to create is a ripple effect. I could die for that dining set. Nice. Are you showing off your new toys? Guilty, yeah. Ooh. Ed eccoci qui al finale della Rosa Purpurea a parlare di cinema da vedere in casa, e come sempre lo facciamo cominciando dai consigli gratuiti e praticamente in chiaro, nel senso che ormai il digitale terrestre è patrimonio quasi di tutti e lo sarà sempre di più. Insomma, cosa si può vedere, registrare, rivedere nella programmazione settimanale della prossima settimana, appunto, in televisione? Noi lo abbiamo chiesto ad Andrea Fornasiero di Film TV. Ciao Andrea. Ciao Franco, un saluto anche agli ascoltatori di Radio 24. Questa settimana da Film TV segnaliamo La guerra di Charlie Wilson, in onda su Rete 4 alle 21.10, martedì 16 marzo, in prima visione. Charlie Wilson era un politico americano, tra l'altro scomparso lo scorso 10 febbraio, e il film ne traccia un ritratto ironico, scritto da Aaron Sorkin, noto soprattutto per West Wing, ma anche un collaboratore alla sceneggiatura di Tutti gli uomini del Presidente. È un film che affronta il tema della politica e della guerra con un taglio ironico e sarcastico e con una messa in scena dal ritmo estremamente veloce nello scambio delle battute, quasi una screwball comedy, quelle commedie degli anni del cinema classico di Howard Hawks, per esempio. Qui abbiamo un Tom Hanks che duetta con Julia Roberts in un gioco quasi anche di flirt, e poi c'è un Philip Seymour Hoffman con dei baffi particolarmente esilaranti. In realtà la cosa interessante di Charlie Wilson, al di là del ritmo e dell'ironia, è il fatto che si parli comunque della vendita delle armi da parte degli Stati Uniti ai Mujahideen dell'Afghanistan, e quindi quando li si vede come delle macchiette abbattere felici un elicottero russo, è difficile non pensare che oggi abbattano elicotteri americani, per cui sotto l'ironia c'è anche un testo politico, diciamo. Quindi un film interessante che vi consigliamo. Per questa settimana è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie Andrea Fornasiero. Allora ricordiamo l'appuntamento: La guerra di Charlie Wilson, martedì 16 marzo alle 21.10 in prima visione su Rete 4. E noi andiamo alla terza e conclusiva traccia del DVD Game di oggi. È quasi certo che il decesso è stato causato dalla ferita da proiettile alla testa e non dalle percosse ricevute. Ok, che altro? Con le due amiche aveva fatto il giro di 4 bar, quelli che possono averle viste li stiamo interrogando. Un'altra cosa, nello zainetto trovato nell'auto c'erano dei dépliants e una lista di alberghi di Las Vegas. Non mi pare granché. E allora la rosa purpurea @radio24.it, avete sentito, c'è di mezzo un omicidio, insomma speriamo che basti per vincere questo Blu-ray. Ricordo ancora, scriveteci come sempre inserendo anche il vostro indirizzo di posta privata. Passo indietro di 7 giorni, andiamo a sentire una delle tracce che avevamo proposto la settimana scorsa. La strada che hai percorso era spinosa, anche se non per colpa tua. Ma come la pioggia penetra nella terra e come il fiume sfocia nel mare, così le nostre lacrime scorrono per una fine predestinata. Le tue sofferenze sono finite. Bela, figlio mio, che tu possa trovare la pace. E allora, più che belare, Bela è un nome, in questo caso non è l'esortazione, è un verbo, insomma un doppiaggio classico, l'avete sentito, perché il film classico è l'uomo lupo di cui il recente Wolfman, che è ancora nelle sale cinematografiche italiane, è un remake. Hanno vinto, e non era facile, proprio per nulla, però questo splendido, davvero splendido DVD, Rossella le donne di Roma e Fabio Cavaliere di Latina Scalo, insomma due ascoltatori nel Lazio per questo capolavoro. Andiamo a scoprirne le qualità in DVD dal nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, nonostante l'età della pellicola, siamo di fronte a un vero e piccolo proprio miracolo di restauro tecnico e conservazione fisica della pellicola, regalando una visione più che dignitosa. Glorioso bianco e nero con buone sfumature di grigi, c'è audio monofonico comunque sufficiente e garante anche dell'originale doppiaggio italiano. Questa è un'edizione speciale di Universal Home Video in due dischi. Segnalo tra gli extra molto molto interessanti un documentario in compagnia del regista John Landis, un approfondimento sul mito dell'uomo lupo nel cinema, e un altro documentario dedicato alla vita e all'arte di Lon Chaney Jr. E allora, questo l'uomo lupo che abbiamo regalato la scorsa settimana, noi adesso andiamo invece a un paio di proposte di questo weekend. Cominciamo con un film che ancora una volta ragiona sul tema dell'invasione aliena al contrario, cioè dove quelli che fanno paura sono gli umani. Planet 51. Oh, c'è ossigeno, respiro. Ma tu parli la mia lingua. È incredibile. Parli la mia lingua. Sì, è quello che ho appena detto. Hai appena detto? È quello che ho appena detto. Di qualcos'altro. Tipo cosa? Tipo cosa? Impazziranno giù al Kennedy. Sono il comandante Charles T. Baker, astronauta. Astronauta. Lem. Non capisco se ti chiami Lem o se sei balbuziente. Houston, abbiamo un piccolo problema. Sul Pacifico remoto pianeta 51 vive un popolo di creature all'interno di un'epoca del tutto simile ai nostri anni 50, drive-in, fast food, addirittura Cadillac sospesi a mezz'aria. In un'ampia comunità cittadina vive in famiglia il giovane e timido Lem, amante dello spazio. La sua vita finirà ben presto sconvolta assieme a quella dell'intera cittadinanza per l'arrivo del capitano Baker, astronauta terrestre, che scatenerà il panico. Divertente commedia in computer grafica, produzione spagnola, una pletora di citazioni di opere fantascientifiche del passato che faranno la gioia degli appassionati di genere. Da Mondo Home Entertainment arrivano addirittura 3 edizioni per l'home video, una singolo e doppio DVD, ma naturalmente fuori competizione il Blu-ray contenente comunque una copia del DVD per possedere l'edizione sia in alta definizione che a definizione standard, e offre addirittura 2 tracce ad alta risoluzione. Tra gli extra ci sono vari approfondimenti sulla lavorazione, preso un focus sul doppiaggio in italiano. E parliamo invece di un altro film. Carlo Saura firma uno di quei film che stanno un po' dietro il capolavoro, cioè ci racconta il Mozart del Don Giovanni e ci ricorda le relazioni, quello che di Mozart è rimasto dentro questa straordinaria opera. Ascoltiamo. Ma se è già stato fatto decine di volte. Mai come lo faremo noi. Noi faremo un Don Giovanni che nessuno scorderà. Voi sapete bene che in ogni nota che io scrivo c'è qualche cosa di me, quello che provo, quello che amo. Sulla carta rimane sempre un brandello della mia vita. Per me non è soltanto lavoro, è molto di più. La mia musica è un fuoco interiore, mi consuma. Perché volete costringermi a patire tutto questo per un soggetto così scadente? Permettetemi di convincervi. Lasciate che vi racconti l'inizio. Lo scrittore l'attore Lorenzo da Ponte, ex sacerdote che conduce una vita dissoluta, è costretto all'esilio a Vienna. Aiutato dall'amico e mentore Giacomo Casanova, da Ponte si conosce Salieri, il compositore preferito del re, ma c'è anche un nuovo arrivato, tale Wolfgang Amadeus Mozart. Alla ricerca di un'opportunità per ostacolare l'ascesa di Mozart, Salieri lo convincerà a assumere come librettista lo sconosciuto libertino. L'irrequietezza erotico-sentimentale di da Ponte a Vienna alimenteranno l'ispirazione dell'immortale musicista, dando origine appunto al Don Giovanni. Visione intensa e personale del regista Carlo Saura, un'opera meravigliosa la cui scena è stata sempre perfettamente illuminata dal maestro della luce Vittorio Storaro. Da Lucky Red arriva un ottimo DVD che offre non solo una doppia traccia in italiano in lingua originale in Dolby Digital, ma addirittura in DTS in italiano, che magnifica ulteriormente tutta la colonna sonora. Tra i contenuti extra, oltre a un making of, un approfondimento di Vittorio Storaro sul formato d'immagine del film. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. A presto, un saluto. Il saluto a Claudio Poffi e il saluto a tutti i nostri ascoltatori. Finisce qui la puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento è sabato prossimo alle 18, domenica in replica alle 15, oppure chi vuole ascoltarci quando vuole lui o quando vuole lei in podcast su www.radio24.it. Grazie e un saluto da Franco D'Assisi.